Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, con noi il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di dati che insieme a te andremo a vedere, dati significativi perché cambiano le cose con i rapporti tra le persone, insomma nelle coppie. Sì, qualche giorno fa l'Adico ha commentato dei dati diffusi dall'Istat relativamente ai divorzi nel capoluogo della nostra regione, ma in particolar modo lo ha voluto arricchire anche sulla base di quelle che sono state dei dati che il nostro sportello separazioni e divorzi ha raccolto in questo 2017. E chiaramente, al di là dei dati che poi magari possiamo dare un'occhiata e commentare, c'è da notare subito come il numero dei divorziati nel 2016 è aumentato di circa 10% rispetto al 2015. Questo dato riguarda la provincia di Venezia? Sì, il dato noi l'abbiamo fatto sulla provincia di Venezia, avendo anche appunto dei dati del nostro sportello, che quindi può essere tenuto conto come un campione di assoluta affidabilità. Perché? Perché se sul dato del capoluogo di regione, quindi della provincia di Venezia, è emerso che c'è stato un aumento del 10%, cioè con quasi 1977 nuovi divorziati rispetto all'anno precedente, è anche vero che comunque una delle cause per cui le coppie divorziano generalmente è determinata sia dall'utilizzo dei social network, ma anche da questo fattore di indipendenza economica che le donne hanno in quest'ultimo decennio maturato, perché ci sono situazioni dove le coppie generalmente tra i 40 e i 50 anni, quando prendono queste decisioni, lo fanno anche in virtù di una situazione economica di cui non va a gravare sull'altro, quindi viene tra virgolette anche favorita. Ho capito, ci sono altri dati che vogliamo raccontare? Sì, altri dati e altri commenti. Innanzitutto è vero che le separazioni e il divorzio sono incentivati da questa legge che insomma permette a chiunque di accedere a costi pressoché irrisori. Se una volta l'iter di 3 anni necessitava di udienza davanti al giudice, oggi se uno è nella situazione di avere un'indipendenza economica o dei figli che sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, basta 18 euro presentarsi al comune e in 6 mesi sei divorziato. Tanto per spiegare un po' come l'iter burocratico si è notevolmente semplificato. E invece un dato importante che il nostro sportello ha voluto diffondere in occasione di questa elaborazione è come generalmente la fascia d'età in cui si divorzia o ci si separa più frequentemente è quella tra i 40 e i 50 anni. Però quello che è emerso anche nei contenziosi, chiamiamoli così, è che i genitori non fanno più a gara per avere i figli più giovani possibili, ma anzi cercano delle soluzioni di mezzo che permettano di stare con i figli, però senza rinunciare alle giornate libere da passare con gli amici o a dedicare esclusivamente a se stessi. Questa è stata una cosa che accolto anche noi con grande sorpresa, perché generalmente fino a qualche anno fa invece i figli erano uno di quei motivi di contesa assoluta rispetto ad oggi. Ecco, quindi sono cambiati un po' i modi di pensare evidentemente e come è giusto che sia, i figli devono un po' vedere sia il papà che la mamma. Sì, sicuramente oggi comunque non si rinuncia a fare lo sport, non si rinuncia a uscire con gli amici, come non si rinuncia ad accudire i figli, quindi si cercano dei compromessi nell'accordo di separazione che permette a tutti i genitori di sostenere un po' queste scelte. Poi per tornare ai dati, ricordiamo che nel capoluogo ci sono state nel 2016 8.875 persone divorziate, con un aumento di circa 1.977 casi rispetto all'anno prima nel 2015, quando erano 23.146. Quindi una fetta importante della nostra società, ma anche numeri che bisogna fare una riflessione, perché allegati appunto da quello che sono una delle ragioni principali, che sono anche l'utilizzo dei social, queste cose messe assieme, oltre che a estrapolare dei numeri, fa anche estrapolare dei ragionamenti, e quindi ci fa capire come oggi le coppie moderne tendono ad aprirsi di più verso altri orizzonti che per una volta invece erano più sacrali all'interno delle mura domestiche. Certo, quindi il fatto che ci si lascia è dovuto anche alla possibilità che attraverso i mezzi dell'informatica permettono di fare conoscenze e amicizie con altre persone. Esattamente, come permettono anche di ritrovare vecchi amici o vecchie amiche, magari di infanzia. Vecchi amori, no? Vecchi amori. Non volevo dirlo, ma insomma, io credo che insomma l'amore della compagnetta o compagnetto di banco insomma non si scorda mai, anche a distanza di tanti anni, c'è chi insomma lo rialimenta. Però ecco, tante combinazioni, tante cose che da un lato incuriosisce e da un lato, detto canto, invece appunto va a incrementare questi numeri, e chiaramente lo sportello dell'Adico, ricordiamo che è da 2 anni attivo presso la nostra associazione, vedo che insomma non conosce tregua. Perché le coppie molte volte vengono anche per chiedere semplicemente informazioni, in virtù anche di quelle che appunto sono degli incentivi che purtroppo o meno oggi comunque ci sono. Beh, credo che abbiamo così aperto una finestra su quello che è un problema. Effettivamente ci si sposa di meno, si divorzia di più e quindi si mette un po' a rischio quella che è la famiglia. Staremo a vedere, speriamo che ci sia una inversione di tendenza su questo. Grazie all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori, ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, e grazie a Carlo Garofolini, che ritroviamo magari tra qualche giorno. Grazie a te Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.